asadao do barasia kita uli di barasate aki hola kono la sai mani tadi nam pe tu korang lawan apa dia. Song